José. Dall'Egitto ti ho liberato, ti ho condotto nel deserto, ti ho nutrito e dissetato. Quando poi con Giosuè ti ho ridato la tua terra, ho piegato i tuoi nemici, pane e miele ti ho donato. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Ma tu hai mormorato, sul Sinai ti sei fatto un idolo che non parla, un vitello d'oro. Ma tu hai chiesto un re per essere il più forte, hai fatto un tempio a me che non ho dimora. Piacere che ancora ti ha fermato.